Nell'ultimo racconto, Peppe è garzone del soprastante di un grosso proprietario terriero di Castelbuono. I giudiziosi ammaestramenti del soprastante e l'astuzia di Peppe, l'abbandono del lavoro per i dissapori col soprastante e anche perché il feudo era diventato facile e comodo rifugio di certi briganti alla macchia, siamo negli anni 40, i quali taglieggiavano il padrone servendosi di Peppe per le loro richieste e il padrone a sua volta si serviva di Peppe per foraggiare i briganti. Ma il racconto non termina qui e così. Ascoltiamolo. Vai a vedere il porto, soprastante. Poi io aveva una ciccaretta e una cervelluzza, e aveva la caretta. Ma io lo chiamo già, sentivo, mi disse io. Toccata la soffiano dalla vacca. Una corona della ciccaretta, dammi la ciccaretta, e io non ci pensavo, magari continuavo a la cieca, ma io non mi ci faccio pensare. Prima viene e pigliavo un scaglio per palomo. Come era il tuo scaglio, non avevo una diabete, la mala diabete. E però mi generava, c'erava la diabete, non mi dà c'erava, non mi dava la diabete, perché ti servo la diabete. Veniva prima, poi, venne una mano, poi diciamo a cogliere i picco, con gli miei picco. Non andiamo a mangiare che bianca, che nevra si piacciono a padrone, mangiamo che nevra, che bella. E se mai era andata i due a fare lo scarto. Veniva i figli, cominciamo che era nata e ci fosse. O patrone, c'è madre, mangiamo che domenuto. E mangiava che ci fosse, e che domenuto si mangiava i due. Veniva. Poi mi hanno detto, famo se mangiare i pavo, era il tempo di pavo. E mi metto i pavo, mi metto un toglio dentro, a casa ogni pavo, insomma. Ora che fai, ti mangi i pavo. Mangiamo i pavo, io non ci pensavo, io mi faceva pensare, non è poco questo, ma non è poco che mangiava io. Io mi insegnavo come a fare. Veniva, vogliamo qua, un giorno vogliamo le sedie. Io poi mi fece un bel giardino, un toglio delle vie, c'è quella che di nuovo, prima stava in casa d'aria, aveva messo il motore avanti, non poteva essere là. O faceva un toglio delle vie, o faceva, guardate, c'erano le prese per mettere l'acqua. Non ce n'era manco acqua, avevamo a portare le prese. E via dolando nel sole, che tanto c'erano nel sole. E invece gli mise una stanga e carriava l'acqua di noi, e fece questo bello cocuzzo, quattro posti di cocuzzo magnifico. E poi ne fece un'altra sera, e fece, vedo l'uomo. E vedo Brinca, se era un po' montese, fece il presto. E fece, poi mi buona un giorno bene. Dice, andiamo a cogliere il cocuzzo, quindi il mio cocuzzo. E gli mise una salsa e si buttava tutto qua, non lo sapevo dove ti entra in capata. Io abbeverava. Ho finito a beverare come veniva l'acqua. Poi stai un motore e beverare. E mi ne andava a casa. Arriva a casa e ne vedi due tinte e una tinta. Mi chiedo buttano, che sono i miei tieri. Poi io ho fatto i cocuzzi, io ho fatto le cose. E chi si credeva tutto questo, mi è andato a tinta, a me pigliavo fuori. Aspetta come con Davide. Apparai un banale nei cocuzzi e poi tutto che c'è. Cocuzzi di tenere, tenere, con 40-50 cocuzzi. Capisci? E quindi io, poi ero a casa, e mi si arrascare, non potevano arrascare che erano tenere, tenere come l'acqua, e si rubavano sul sole, ecco, a me c'era una bella pignata, che si ingrossavano e erano chiazzati, quindi che si buttava io. E chi si faceva? Ma c'è questo? Ora, questo cocuzzo ti fa testo, ma ora come c'era che l'uomo torna vero, torna vero. E capisci? Cominciare un po' che l'uomo, io come faceva. A pigliava la cocuzza, ci scorriava per culo, non ti chiamo c'è una tabanna, che ha fatto qua nella mano avanti. Tutto ne veniva la cocuzza, ci sbrigava nel ramo, tutto ne aveva e restava. Bella questa, qui io me ne mangio, ma io ti manco, ma io sembrava mangiare la caruna. Perché mentre i pampi non le veniva, mentre i troppo. Poi scaliava, i trovava e mucciava mentre ai per l'arancia, tu a mangiare la cocuzza tua. Veniva, veniva. Poi non ne venne, io. Venga, la cocuzza, dice. Ma frate mio, vedo, un mano avanti, a mano a testa, potevano crescere due cocuzzi che erano sforriate e maniate, non per culo, come ne arrestavano in gelato, capisci? E mi metteva a ridere in sostanza, ma dopo che ridere, ridere, dico, perché se voi scopriamo la malattia, vedo, arrestavano senza cucuzzi per quella, e dicevo, tu non potevo mangiare, dico. Veniva, veniva, e già vai a via. E non ne ha, mi dice, non ne fatto su, e non ne fatto me. Arrivai a casa. Avevo la faccia di legna fatta e ammucciato un po' per uno. Io li pentiavo, si caricava e si buttava. Dopo io ero buttato, le faccia di legna e si buttava. Non si poteva fare legna. facevi la panare, io veniva per si puttava. Dice, ho tonto poco patrono, ci dice, vai panare, ho tonto poco patrono, che dopo poco patrono, mi tocca una volta, mi viene una domanda cosa a me. E almeno che era, dammi faccio la panarietta, capisci? E finivo, poi andiamo a cominciare il pomeramolo. E mi so cogliere il pomeramolo, io pomeramolo. Si caricava e si portava qui. A dire, beh, attaccava quattro, un panarietto, ti portava a casa, niente proprio. Poi qui mi arrivava la domanda di pomeramolo. Ci si poteva, comunque, ora ci comincia a mi prendere un patrono. E ci poi ti cogliere. Le brunine non si vincevano mai. Mai si poteva venire in questo brunino. Ah, se è possibile, ha ragione, va bene, va. Ah, io mi ammazzava, mi sediava, se per io ero come a fare la peruca con questi, dico, ma me ne hai meno speziali, se disse, ora te l'arrangio poi io. Oh, va bene, bella sciroccata, andate a mettere la busta, là quando ci arrivavo c'è ne pomeramuri, pomeramuri sono caro. Si disse, faccio, vai, dico, senti pomeramuri, vai che ti posso fare, non si, che tale, faccio il denaro, zio, che me ne vai. E qui era di speziale, che da c'erano i ladri, e mi venivano a cuitare, era speziale. Quanto ne dici? Me ne vai, avanti che l'ultimo d'agosto me ne vai. E potevano essere presso 15 d'agosto, potevano essere. Per io venivo. Buongiorno, una sera. Mentre io stavo a cucinare, perché mi pare a lui in doccia. A te Peppe, che c'è? Ti ha portato io, sta ricca. A me ne sta, che c'è un marco, dice che c'è, pensando, pensando, canceroso. Se la portare, ah, ma perché ti coglionate? E la stacca sul patente, dice che qua guardiamo noi, dice che non cantare che qua niente domani. E io già arrivai, dice, e io già vai, batti che tu sappi. Come arrivai già, davvero che tu sapevi? Si sono andati, e che lui sembra essere, se sei, aspetta che non ti chiedi. Aspetta, ma questo è un comanuto, mi si cose non sa, con ricotto, su carro, madonna, se che c'era, che tu lui già lo sa. E attaccato a punti, ma guarda, con capo lo sa che me ne, arrivai già, che cosa lo sa. Me la stare a me mi trattavano, veramente mi trattavano. Camaravano tutte cose, ma a me mi piaceva questo subito. Io mi scantavo, quando veniva il carabinieri, mi trovo, quando il mio compagno qui, mamma, e mi sediava per davvero. Dico, ma poi un'altra volta, capito che puttare da, mi arrivano, dice, cade, dice, ti mangi tu questo, via, e non vuoi, oh, ti mangi, dice, non ti piace mangiare, e me la va a mangiare per forza che mi scantava, dico. Disse la zarona, veniva, veniva. Una sera poi mi ne chianai, come non li avevo visto, mi arrivava perché devo uscire, e nel mezzo di questo mi chiamarono, da casa, dice, porta qui sto sbastando, e un altro biglietto. E ci portava sbastando, questo sbastando un giavo, ma lontano la munda ci stanno un giorno in lavoro, poi, c'è il suo Giuseppe, c'è il no, dice, non c'è niente, dice. Tu non ti ha detto ma che si incattava, ci ti pensieri. Va bene, va bene. E ci pensavo, già che stavo su casa che c'erano, già che tanto c'era contrabbanno, le carri non si potevano mangiare. O pigliavano le contrabbanno e che caro, con tanto che te le aspettavano. E mi era tutto cosa, che io avessi parete, ma mi sono tutto cosa, dai via, andiamo e 4:30, 5 euro. E mi andrebbe in teoria, c'è un. E io mi aspettavo, da ha passato la ventoleria, ma potevo devo scegliare. Come vende, poi io mi dicevo, ma cos'è il tempo, manco c'è tardi. Tretto, per pigliare i vietri, per pigliare le cose, me la stare dato su carrete, me la stare non so che c'era un'altra cosa tutta, e io mi piaceva, non voglio caro, per paura non voglio. Aggargiato ti pigliamo, dice, ti pigliare che ti ho fatto la mano. Ah, papà, devo volontare il mio creatore, mi scantava e mi pigliava. E me ne scendevo a te. Che te l'hai niente, io mi disse che mangiava a dire niente, niente mi disse che veniva, passate buon giorno, dei giorni, arriva la stessa musica, ecco, ha fatto il biglietto da padrone, io sto io facendo 900 euro, come c'era diventato il biglietto, mi ricordo a fare un piede, tu buttavi, cai, che lo so, mi detto, oh, c'è stato un giorno di cazzo, c'è stato un giorno di, come si chiama, oh, non so, un cazzo, c'è questo, che io sono cristiano, mi sono, oh, tu, come, e basta. E io parevo. Come disse, ti metto la rea cosa, dava il Giuseppe, un padre, dice, ce la va a dire, non ce la va a dire. Ma la vai a cantare il nuovo stomaco? E trovate tu, bambina. Come ci metti? Cosa ti metti tutto questo? Come dici? Che ti incazzava, te mi abbattere, mi dà una maronna, ci stanno mangiando i gatti, ci stanno mangiando il boluna. Cosa tenta, dico? Ti ha detto, che a fare un bravo. Ma se no, a Cellerone non ci vediamo arrivare più. La stiamo a mandato a me. O mettiamo un momento guapo, ti vediamo a mandato a me. E poi mi disse, ti do un cicino. Venga, ti vedo a fare un bravo, che mi disse che non è che papa sia. I papa fanno queste cose. A fare un bravo, se no, a Cellerone non ci fanno arrivare più. Belli cari, ci ho detto, ma io avrei una cara. E basta. Basta, ma io. Dispiaciato che io me la stavo senza sasso, dispiaciato di cristiano, capisci come un coitavano. Andando a fare che prima era busto. Insomma, perché mi c'ero di te? Poi io, non si chiama neanche io. O paese, arrivo, mi viene a trovare. Avanti che io arrivai dopo nel speciale, hanno un ponte di speciale, mi viene il pedarria, che stiamo venendo pure qui, se erano quattro. Che c'è Peppe? Oh, che c'è? Nadare già che avevo detto. Oh, buono, dico, ma cari che state qui c'è ora? Va. Troppo niente, mi state impalando lì. Mamma, poi io ci posso dare, che fare il creatore mio? C'era stai chiavo. Arrivare a dire, sapete, non era rubare una grappa. Sa questo ne ha dove, dico, mi scogliare l'uoglio, mi scogliare il vino, mi scogliare la legna, e me ne lasciare un piatto a me. Io da collera quando trovavo una vigna manco la cosa, perché c'era ogni canto, c'era te cane, buono si vedono, non mi posso mangiare questa carne. Faccio quel capire. Venivo, e mi dispiaceva. Ma io la chiave, ma c'era una tecchina da, ma mi sono da chiave. Era la chiave, e mi da che c'era un bordello fatto, lui gli sbagliato. Qualcuno lo trovava più, i ringhi si fottiero, un vino non c'era più una bottiglione. E se poi io lo buttavo di qua, buono di sotto l'altro. E poi ne ho poi. Poi un'altra sera viene, io mi arrestavo per durare ancora un minuto di prestante per io lo buttavo, voglio trovare la raggia e becchina. E io facevo travagliare un motore tutta la notte per trovare la raggia e becchina, capisci? Però un picchio lo buttavo, vedi, ma con un'altra non sapendo chi era già che mi stava raccomando. Per cogliere. E spuntano che si dice a capè, che c'è io? Me ne parlo con quei tiri e dice domani mattina a portare questi quattro mischetti che ho passato l'anno. Inga dico pure chi si c'è? E sto tu caricato, sto da scappare che mi carica dopo. Inga magari chi si c'è? Ah, io non ci potevo dire, se ci ricevevano male, mi ammazzavano. E poi ci ho buttato, come aggiornavo. Poi chiai, parlai le cose, inga dico quanto sono pesante, comunque, magari che sono detto quella donna. Quattro mischietti su 40 kg. Io da scappare bene le 10 kg l'una, sono 10 a 10, 20, 40, 60 kg. Porca miseria, come i putti? Ecco, poi ha visto così, erano sopra, io mi tagliavano a me, perché erano sopra i miei, erano a debbano su, ma loro ce l'avevano a me, perché io si mettevano in guardia, cosa scendevano i carabinieri, la putta di avventeria. Appena venivano i carabinieri, si stavano, levavano l'arma a me, e si attaccavano a fuoco, ma mi scancava, mi chiamava la protezione, vieni carabinieri, mi vedo questa mischietta, non ti scantare che non ha di guardarmi, dice, non ti scantare che non ha, ma poi c'era coraggio, e poi c'era prova, e poi c'era, dove vedo qua, vieni una mantellina di soldato, dove mi sto qua, dove vedo la spalla, se scappavano attaccavano tutto, e poi c'era uno davanti a uno del re, e camminava, mi dice, c'era la montata, poi c'era porco reale, dico, ma che è troppo pesante, dico, come appare? Montata che veniva. Ma se era veramente di così che picciotto, ma non cavo qui sa stare qua. Allora, credo che vuole dire. Prendiamo montata, ne piace un'altra quasi 20 metri, 100 metri, e poi venne ridere, ma non mi arrivavamo un operatore qua. Ma scucciare due cose, non capo. Mi rettero un pacchetto di sigarette e ci cercava a tenere. Mi ringraziare. E dice grazie, poi grazie, non ti scantare, ti va a tenere, dice tu guardate in questo padrone, ti ho pigliato quello che non amate, dice. Veniva, veniva. Ognuno, poi, io pigliai, avevo un pezzo di muschetto, l'aveva scippato un tedesco con ieri, la campagna poi, come si chiama, chi si può prima dire no, porto la via via. E questo muschetto, era corto lì, come se no, paracco, la campagna poi, caricatura, e mi veniva a pensare io. E lei aveva già un muschetto ammucciato. Ma io, Ah, sì, sparavo, boom, due muschietti, non potevamo sparare a mano che mi scantava. Attaccavano, toccavo, con lui, ci attaccavo, ridere, non matasse il spago. No, ridere, tirava la porta di che mi scantava. E mi avevo curato, si cantavano, mi scantavo, mi venne un po' curato, mi diceva che mi curava, da. Certo, e poi, perché, ma cazzo, il muschietto tu dici? No, dico, no, no, è il corpo del muschietto, perché un muschietto si conosce. Non che scoperta, la scoperta fa un boom, la scoperta fa TAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA cantante pare che c'è anche mente. No, no, di quel no, io c'ho un'aina che ti dicevo che io mi stai. Ma che di quel naio? Venivo, venivo. Ma di sa che stai a sparare, cui vuoi? Poi c'è un colpo, pom. Dico, bello ci vai, con la tenne con cammino. Giusto, giusto, no. No, io mi c'era un porcato. Invece sparare, questo dato l'aveva fatto. Quindi dai, un barbè, che c'è lì? Ma ti pare sparare un colpo, cosa sparare? Un buon petto moschetto, non siete pazzi. Ma mi avete causato dato un petto, dice, un buon petto moschetto, dice. Ma io non ho moschetto, insomma, mi sono un croce, o io ho usato, insomma, tanto vado a fare otto spezzi, ho letto un caricatore. E ne andiamo in tuo cuozzo, caricando, c'era una via, andiamo in tuo cuozzo. Ma da banno io mi c'era, alla paria, grollo stanno all'euro. E c'era una capennata, e c'era un cupidone l'apo messo, una pennata da me, appennuto. Tu non pigli le bottane, capisci, pigli le moschette. Prima tagliavo, poi smontavo tutto, ne pigli sette piezze. Poi ad armava a ria e poi ci sparavo, a un cupidone che. Minchia, come sparavo, pum, un cupidone che stava nella ria. Si può dire con che pacete, dico, faccio sangue la maronna, c'avevi l'apo, dico. Cosa bello su quest'altra botta, dico. Non sappia con noi, e una copetta dice, non c'era dice. Amanina, amanina, mi muoce, dammi scantai poi. Ho messo. Non andiamo da niente, andiamo da niente, ma non c'è un moschetto, che se ne va a fare solo. E io dice, inizia a fare a mano, dico, questo minchia spara, dico. Aspetta, e poi sparare a mano, poi mi apriai. Cioè, che non ti ammazzavo. Sparava a mano, poi sparava pure a mano. Caricatore ne via, che mi caricai quanta gente con i gel. E la via. E quando potevo sparare io? Quando potevo sparare, poi veniva una torre come neve, da Usto, come ci sapevo, come andava ieri. Venne io, un moschetto, pigliavo il tempo in una macchina. E caricatura pure. Ora il moschetto, non lo sapeva, un attimo, un compagno mio già, che attaccava le frasi in un poppino che era il Natale. E dice, non lo sa tanto, no, no, di qui ho detto già. Mentre la macchina, a bomborugno, su cosa arma, me lo tar. Non ti puoi maniare, che non ti puoi portare. Domenica comune, io sono più a moschetto che erano poi caricatore, sono buttato la batteria da un capo e sono messo dentro. C'è la testa, c'era un bello uccellone, c'è la testa a sparare, c'era abbattuto che non è stato uno, capisci? Un teso, c'è un nero, dove ci vado l'uovo e c'è trovato un moschetto in acqua, c'è niente da bando. A sparare, io ero un moschetto, si buttava la caserma, un moschetto si curava la caserma, e io ti facevo 4 anni e mezzo di carcere, e spesso ci carino.